E torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa per raccontarvi un'assemblea cittadina che è stata convocata per sabato prossimo. Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano. È un'assemblea convocata dalle Cagne Sciolte nel nuovo spazio sociale occupato di via Ostiense 137. Leggiamo dal blog cagnesciolte.noblogs.org. Riprendiamoci i nostri spazi, andiamo insieme nei luoghi del quartiere in cui non ci sentiamo tranquille quando siamo sole. L'assemblea pubblica sarà appunto sabato 11 gennaio alle 17 per organizzare una passeggiata collettiva. L'obiettivo è quello di individuare insieme tutte quelle strade, quei vicoli e quei luoghi del quartiere in cui non ci sentiamo tranquille quando siamo sole, così da poterli attraversare tutti con una passeggiata collettiva che discuteremo e organizzeremo in assemblea. E abbiamo al telefono una compagna. Pronto, ci senti? Sì, pronto. Ciao. Ciao a tutti e a tutte. Appunto, una compagna per parlare di questa assemblea che avete chiamato per sabato prossimo. Sì, sì. Allora, noi appunto avevamo deciso di chiamare, diciamo che l'appello è abbastanza esplicativo perché avevamo deciso di chiamare questa assemblea che è cittadina, sì, ma richiama soprattutto le donne del quartiere affinché possano venire a raccontarci quali sono le strade in cui non ci sentiamo sicure e quali possano essere i modi per renderle sicure per le donne. E partendo dal presupposto che le strade sicure non le fanno la polizia e non le fanno le guardie, pensiamo che un'arma possa essere la nostra solidarietà e la nostra presenza collettiva in questi spazi. E quindi già il 6 tramite un mercatino abbiamo richiesto di segnalarci delle vie o delle strade in cui le ragazze, le donne, insomma, non si sentono sicure, e già abbiamo avuto diverse segnalazioni e vorremmo partire da quelle affinché nell'assemblea poi possiamo strutturare proprio un percorso che ci permetta di andare a fare questa passeggiata e far sentire il nostro passaggio in quelle strade. Ovviamente vorremmo che fosse molto partecipata, soprattutto dalle donne del quartiere, in quanto poi avendo occupato soltanto da due settimane abbiamo anche la necessità e la voglia di aprirci a tutto il territorio. Certo, lo vuoi ricordare, appunto, uno spazio sociale nuovo che voi avete recuperato da poco? Abbiamo occupato questo spazio sabato 14 dicembre in via Ostiense 137. Questo era un ex night club, uno street club, e appunto è da quasi un mese che siamo lì dentro e che cerchiamo di fare iniziative e di aprirci al territorio e di farlo diventare un punto di incontro e di discussione per le donne. Diciamo c'è una progettualità molto ampia, fra cui uno degli elementi per noi più importanti era quello di inserirci uno sportello antiviolenza, quindi uno sportello di accoglienza per le donne che avevano subito violenza, ma non solo. Quindi piano piano, ovviamente siamo ancora agli albori, però stiamo cercando di immaginarci tutta una progettualità a lungo termine. Sì, e appunto questa dell'assemblea di sabato è proprio un vedere, insomma, la questione della sicurezza delle strade all'opposto da come la vedono le guardie, esatto, e le istituzioni, no? Che la vedono come telecamere e pattuglie strada. Esatto, esatto. Proporre, diciamo, una modalità diversa di rendere sicure le strade, dato che non pensiamo assolutamente che possa essere questo il modo e che questa sia la soluzione al problema. Ovviamente poi il problema della violenza sulle donne ha un e parlando di violenza si parla di tutti i tipi di violenza, anche quelle che magari siamo abituate a ricevere e neanche più riconosciamo, e pensiamo appunto che quei tipi di violenza non possano essere debellati con telecamere o guardie nelle strade o con il braccialetto elettronico eccetera, ma debbano essere debellate tramite la presenza delle donne per strada, una presenza sempre più massiccia e sempre più solidale. Sì, anche perché quando una donna trova in strada una guardia, questo certo non la fa sentir sicura. Esatto, quindi insomma invece la presenza collettiva di tutte l'idea, no, che voi lanciate, certo, e sì. Di questo si discuterà anche... quindi sabato, dici esatto, sì, questa assemblea ci sarà sabato alle 17 appunto da noi a Viale Ostiense 137, speriamo in una larga partecipazione e soprattutto una attivazione delle donne rispetto a queste tematiche, perché poi tutte diciamo, rendendocene conto o meno, tendiamo ad evitare certe strade, e quando invece ti viene fatta la domanda ti devi proprio fermare a pensare se c'è una strada che naturalmente non fai perché hai paura di attraversarla, perché è troppo buia o cose di questo tipo, o troppo poco frequentata, eccetera. E quindi anche per me è stato difficile trovare effettivamente, cioè attivare un meccanismo in cui riconoscessi effettivamente una strada che spontaneamente non facevo per questo motivo. Sì, perché magari cerchiamo di rimuoverlo, insomma, di pensare che siamo sicure, tranquille, e poi però ci auto reprimiamo. Esatto. E questo insomma il discorso. E niente, insomma, le attività del nuovo spazio sociale vanno avanti, è uno spazio aperto che ha già organizzato molte cose, anche venerdì sera avete iniziativa prima dell'assemblea, sì. Non so se vuoi ricordare anche questa. Sì, venerdì sera ci sarà uno spettacolo appunto che parla di carcere, nello specifico parla della sezione femminile di Re Bibbia, che è stato scritto da una compagna e che viene interpretato da altre compagne. Sarà appunto al nostro spazio, abbiamo comunicato che sarà alle 18:30, ovviamente il tempo di far arrivare le persone, poi ci sarà questo spettacolo e dopo ci sarà magari un momento, è uno spettacolo molto forte, quindi subito dopo ci sarà magari un momento, un attimo di rilassamento e poi la possibilità di parlare e di confrontarci. Quindi la tematica anticarceraria. Quindi venerdì alle 18:30 in via Ostiense 137, Antigone tra le mura, e poi sabato sempre in via Ostiense 137 l'assemblea pubblica alle 17. Esatto. Esatto. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no noi per il momento ti salutiamo e poi ovviamente ci risentiremo per sapere. No, non c'è nient'altro da aggiungere. Com'è andata? Mille. Ciao. Eh? Poi ci sentiremo. Ciao, grazie mille. Ciao. Certo, ciao a tutti. Ciao.